So, good morning, everyone. I hope you've had a good night's rest. Buongiorno a tutti, spero che abbiate avuto una buona notte di riposo. What we shall do this morning is to give some additional instructions on mindfulness during sitting meditation, mindfulness during walking meditation, then mindfulness during general activities, a few words about the interviews, and then also a few words about a general attitude towards practice. Quello che faremo stamattina è di dare delle istruzioni addizionali riguardo alla consapevolezza nella pratica seduta, camminata, delle attività quotidiane e in più anche alcune istruzioni riguardo un'attitudine generale sulla pratica e anche i colloqui, scusate. No, there are various forms of various ways of sitting. The text, the Satipatthana Sutta, speaks of sitting in full lotus, but not everyone can do this, and that is also not necessary. So if the full lotus posture doesn't work, then one could choose to sit in the half lotus posture with one foot then being placed on the thigh of the other leg, and if that position too is not very comfortable, then one might choose to simply assume the Burmese posture, namely placing one foot in front of the other. Allora, ci sono vari modi per sedere. Nei testi si parla del loto, pieno loto, in posizione del pieno loto, ma non è necessario tenere questa posizione. Si può fare il mezzo loto oppure la posizione birmana, che è quella di mettere una gamba davanti all'altra, incrociate, un piede davanti all'altro. No, for those who have difficulties to sit in the aforementioned three ways, one could also choose to sit like a mat on a bench. Or else, if you've had some spine surgery or some chronic back problem, you might choose to sit on a chair. But if you do so, please do not lean against the backrest, because it means there will be less physical effort, and this posture will easily lead a person to fall asleep. Per chi non riesce a stare seduto per terra, si può optare per l'opzione del seggiolino, come sta usando Matt, che vediamo qui davanti, oppure se qualcuno ha avuto qualche problema di schiena o un'operazione può sedere sulla sedia, però per favore non appoggiate la schiena allo schienale, perché questa posizione può indurre sonnolenza. Also, what you could do is that you could choose to spend one hour on the one sitting on the on the cushion on the mat, and then the following sitting on a chair, and so on. Può anche provare a sedere per un'ora sulla cuscino e l'ora successiva provare a sedere sulla sedia per cambiare un po' la postura. Now, the main aspect with regard to the posture is that you choose a posture that you can maintain comfortably over a longer period of time. What's the use of sitting in full lotus posture if already after 5 minutes you end up with excruciating pains, and it will basically ruin your sitting? Allora, l'idea è quella di trovare una posizione che ci permette di sedere in un modo confortevole per un lungo periodo. E non ha alcun senso sedere nella posizione del loto pieno solo per stare seduti nel loto pieno, quando poi dopo 5 minuti abbiamo dei dolori terribili che ci rovinano l'intera seduta. Now, in terms of the position of our hands, we can place them on the knees, or we can put them just in between, or keep them in the lap. Any way is fine. Le mani le possiamo tenere appoggiate sulle ginocchia oppure tenere una appoggiata sull'altra e comunque va bene. And so, now then you want to maintain an upright posture. You want to keep your back as upright as possible. So ideally at a 90 degree angle to the floor. And an upright posture usually very much helps to keep the mind away from drowsiness, from sleepiness. E bisogna mantenere la schiena diritta, ben verticale. Deve essere un angolo di 90 gradi con il pavimento e questo aiuta a mantenere l'attenzione e superare, diciamo, la sonnolenza. And so an upright sitting posture also is helpful in the sense that it doesn't or it supports proper breathing. It further ensures that the digestion of the food can take properly, and then it will further ensure that there are no problems with the the gastrointestinal urinary tract system. La posizione eretta con la schiena ben diritta serve per avere una buona respirazione, per avere una buona digestione e anche aiuta con il sistema urinario. No. The when we sit in meditation, then we want to keep our eyes closed and we want to maintain a natural breathing. Now, by natural breathing is meant that you just allow the breathing to take place as it happens naturally without forcing it one way or the other. If at times your breathing naturally is a bit faster, a bit more forceful, then just observe it the way it is. If at other times your breathing is somewhat slower and more shallow, then you can equally just equally observe it as it is without trying to speed it up. Too long. Too long. provo a ripetere, ma non mi ricorderò tutto senz'altro. So with the breathing. Con la respirazione bisogna cercare di mantenere un respiro naturale. Ecco, and breathing. Yeah, and so when the breathing is long, naturally, or when the breathing is forceful and fast, then we just observe it the way it is without changing. Quando il respiro è lungo o veloce, lo osserviamo nel modo in cui si presenta. And so, then when the breathing naturally slows down and is more shallow, then again we just observe it the way it is. Nello stesso modo quando il respiro rallenta e diventa più breve, lo osserviamo nel modo in cui si presenta. Now, the primary object of observation in the Mahasi tradition of Vipassana meditation is the rising and falling movement of the abdomen. Nella tradizione Mahasi l'oggetto primario è l'alzarsi e abbassarsi dell'addome. Now, as we breathe in, quite naturally the abdomen will expand, will inflate, and certainly then we pay close attention to this. Quando noi inspiriamo, naturalmente l'addome si alza e noi portiamo l'attenzione a questo movimento. When the exhalation takes place, then naturally the abdomen will contract, and certainly then we want to pay close attention to this falling of the abdomen. Quando respiriamo, l'addome si abbassa e noi portiamo attenzione a questo movimento dell'abbassarsi. Now, with regard to the rising and falling movement of the abdomen, as well as any other predominant certain bodily or mental object, now there are three aspects to keep in mind. riguardo al movimento dell'addome e anche qualsiasi altro oggetto primario, ci sono tre aspetti principali da tenere a mente, da osservare. The first one is the occurrence of the object. And it's simply just to know such and such object has occurred. Il primo è l'avvenire dell'oggetto, il presentarsi dell'oggetto, semplicemente essere consapevoli che questo oggetto si è presentato. And then the next step consists in labeling that certain object that has just arisen. By labeling, we mean to put mentally, to put a name to the experience. So in the case of the rising movement, you just label as rise or rising. Secondo aspetto è quello di mettere un'etichetta mentale. E questo vuol dire, ad esempio, nel movimento di alzare dell'addome, mentalmente ripetere l'etichetta mentale alzare. So the occurrence certain of the object is there, the next aspect is the labeling of it, plus certain of the observation of it. By observation we mean being aware of the object from start to finish. Quindi abbiamo notare che l'oggetto è sorto, poi l'etichetta mentale, e poi insieme all'etichetta mentale l'osservazione dell'oggetto dal momento in cui si presenta al momento in cui finisce, per tutta la sua durata. And then the third aspect that applies to the rising and falling movement of the abdomen and any other predominant object is to know its nature. Il terzo aspetto di qualsiasi oggetto è quello di conoscere la sua natura. Now, by knowing the nature of the predominant object, it's meant to know its characteristics, its features, its qualities. Questo vuol dire conoscere le sue caratteristiche, le sue forme, la forma che prende e le qualità. Principale. To explain this further, in the case of the rising movement of the abdomen, it's a physical process that takes place, and with this, you could notice, let's say, an expansion of the abdomen. So the expansion itself is a physical sensation, and something you just pay attention to this, and you know that the abdomen is expanding. Nel caso del movimento dell'addome, nell'alzarsi dell'addome, c'è un'espansione, quindi questo è un fenomeno fisico che sta prendendo luogo, e quindi osserviamo continuamente questo fenomeno fisico, questa espansione. And it could also be that towards the end of the rising movement, let's say some tension is building up, some physical tension is there. Then, if that's part of the experience, then simply just know this. Potrebbe succedere anche che verso la fine del movimento di alzare può presentarsi una tensione, e quindi semplicemente di notare anche questa tensione, che c'è questa tensione. Or, yet another aspect with regard to knowing the nature of the rising movement of the abdomen. What about its movement? The movement that the rising is taking at one point could be one way, another point another way, at a third point in time again something else. And so the movement could be a very continuous, smooth, gentle movement. In another case, the movement could be a rather tense, difficult, hindered movement. And certainly then, at certain other times, it could be even a forceful movement. Whatever it is, pay attention to it. Or pay attention to it and know it. Un altro aspetto che possiamo notare riguardo al movimento, è proprio il movimento, scusate. Il movimento si può presentare in vari modi. E può essere un movimento liscio e fluido, fluente, oppure può essere un movimento più ruvido, diciamo, oppure addirittura può essere molto difficile e teso, e quindi prestare attenzione all'aspetto del movimento così come si presenta. No. In the case of the falling movement of the foot, now the abdomen it's the same thing. When the falling movement takes place, at the very beginning of it, or there's the occurrence of the falling movement, sorry, and then at the very beginning of it, you would certainly want to briefly label it as falling or fall, and then you observe that entire falling process from its very beginning until its very end, and certainly you try to know its nature. Lo stesso per il movimento dell'abbassare dell'addome, in primo luogo notare e mettere l'etichetta mentale, quindi abbassare, notare che sta avvenendo, che sta cominciando questo movimento, e poi di notarlo dall'inizio fino alla fine, notare la sua natura. Now, in the case of foot knowing the nature of the falling movement, you might discover first a certain release of tension, you might further discover a relaxation, you might further towards the end of the falling movement there's a contraction. So the release of tension, the relaxation, the contraction, those would be aspects of knowing the nature of the falling movement. Allora, potrebbero presentarsi questi aspetti nell'abbassarsi dell'addome, il diminuire della tensione, un certo rilassamento, quindi, e verso la fine potrebbe esserci addirittura una contrazione. Quindi questi sono gli aspetti che vanno notati nell'abbassare dell'addome. Now, obviously the falling movement is not going to be like this all the time. It will change, and then you have to carefully observe it and know those changes. Questi sono, diciamo, degli aspetti generali, però naturalmente non si presenterà sempre nello stesso modo, e quindi sta a voi cercare di osservare come si presenta veramente. Now, as mentioned, the rising falling movement of the abdomen is your primary object. If, however, sooner or later, some other more predominant object arises in the body or in the mind, then let go of the rising falling movement of the abdomen and focus your attention towards the new object that's coming up. Naturalmente questo movimento dell'addome è l'oggetto primario, ma se si presenta un altro oggetto primario nel corpo, nella mente, lasciate andare il movimento dell'addome e portate l'attenzione su questo nuovo oggetto primario. So, as mentioned last night, this could be wandering mind. Come ho detto ieri sera, questo aspetto nuovo che si presenta potrebbe essere la mente che divaga. Now, to add a little bit here to what was said last night, when wandering mind is taking place, then try to become aware of, try to label it as soon as possible, and then observe it in a manner without getting caught up in the content of that particular thought, and know its nature. Quando c'è questa mente che divaga, la prima cosa è cercare di riconoscerla il più presto possibile, e il secondo aspetto è quello di non farsi coinvolgere nel contenuto della mente, del contenuto, insomma, dei pensieri. E il terzo aspetto è quello di conoscerne la natura, yes. Non the nature. And so knowing the nature of the thinking could be that you come to know that it's just a random thought, just one thought that briefly arises, the next moment it's gone. But at other times it could be that the mind is engaged in an entire series of thoughts, one thought leading to the next. Allora, in questo caso, conoscere la natura vuol dire che a volte può essere un pensiero così occasionale, scollegato, diciamo, sparso. Oppure a volte può essere che la mente costruisce una serie di pensieri collegati, insomma, uno porta all'altro. Quindi questi sono appunto i casi, la natura, insomma, della mente che divaga, da notare. Or it could be, you know, that at times, you know, the mind suddenly gets totally caught up in, you know, some contentious issue, and suddenly then what suddenly can be termed as obsessive thinking takes place. So the mind will go over the same contentious issue over and over again. And this might go on for an entire sitting session. A volte può esserci un pensiero ossessivo e quindi la mente continua a ritornare a questo pensiero ripetutamente, e questo a volte può continuare per l'intera sessione della meditazione. No. At first, during the first few days of a retreat, please do try to, in your labeling of thinking, try to be somewhat precise or specific by labeling planning as planning, remembering as remembering, fantasizing as fantasizing, and so on. But after a while of having observed like this, labeled like this, observed like this, you will come to understand that in the end it's just thinking. Durante i primi giorni del ritiro cerchiamo di essere precisi riguardo alla nota mentale, ad esempio ricordare o progettare oppure fantasticare, o qualsiasi cosa che potete notare con precisione, e dopo un po' di tempo però vi renderete conto che questa attività della mente può essere etichettata solamente con pensare. Now, once suddenly the wandering mind suddenly subsides, then our attention goes back to the primary object. We observe this for a little while, and suddenly, if then maybe some loud noise external noise is impinging on the ears. In this case, the hearing process becomes the next process or object of observation. We label it as hearing, we then observe this hearing process as best as we can, and we try to know its nature. Dopo aver notato il pensiero, il pensiero magari può scomparire e ritorniamo al nostro oggetto primario del movimento dell'addome. Può succedere poi che appare un forte suono, quindi questo diventa l'oggetto primario che colpisce la nostra attenzione. Allora in questo caso dobbiamo etichettare udire, e conoscere il processo dell'udire al meglio che possiamo e conoscere la natura dell'udire. So when the hearing process takes place, then we could pay attention to aspects such as the volume of the sound, and whether it's a continuous sound or maybe a somewhat discontinuous sound, whether it's intensifying, de-intensifying, and then what about do you experience any sensation in the ears, or do you experience any particular mental reaction towards the sound, and so on and so forth. There's much to be discovered here. Anche qui c'è molto da scoprire, insomma. Allora possiamo notare il volume del suono, l'intensità del suono, il fatto che il suono sia continuo o discontinuo, se aumenta o diminuisce, le sensazioni collegate al processo del sentire nell'orecchio, ad esempio, e anche possiamo notare la reazione mentale al suono. And you might even add one, or you might investigate one particular aspect, namely, who is it who is suddenly listening or hearing this sound? Is it I am hearing, or is it maybe something else? Un altro aspetto molto interessante da notare è quello di porsi questa domanda: chi è che sta udendo? C'è un io che sta udendo o è solamente un processo che sta avendo luogo? No, the same thing goes for the other sense door processes. So, let's say we sit in meditation with eyes closed, and then, sooner or later, some bright color comes up in the mind. Could be blue, could be yellow, could be green, any color, or different shapes and so on. Then, in this case, if it's a predominant experience, we recognize our internal seeing process is taking place. We label it accordingly. We observe it in a way that we don't get attached to the experience, and we try to know its nature. Nello stesso modo, possiamo osservare tutto quello che si presenta alle porte degli altri sensi. Può essere ad esempio che mentre siamo seduti a occhi chiusi si presenta una luce di qualsiasi colore, e allora in questo caso dobbiamo notare, vedere, e anche qui investigare il processo del vedere, vedere se c'è attaccamento a questo processo e conoscere la natura appunto di questo processo. The mind, I think, can be extremely creative, and it can come up with all sorts of mental images. And then please make sure that you don't get caught up in those images. Those are just creations of the mind. It's just what could be labeled as seeing process, internal seeing process, and that's it. Sooner or later, the experience will subside. La mente può essere estremamente creativa e può creare una quantità incredibile di oggetti diversi. Allora, per favore, cercate di non farvi coinvolgere, di non avere attaccamento e di appunto notare semplicemente il processo del vedere e la sua natura, e prima o poi questa immagine o queste immagini scompariranno. No, the same basic principles of occurrence, labeling and observation of an object, knowing its nature, then also applies to the other sense-door processes. So we've covered the hearing process, the seeing process, and then the smelling process, the process of knowing a taste during the meals or even outside of a meal, and then this vast field of tactile experiences, and then we have all the mental phenomena that might come up. Lo stesso principio si applica appunto, come dicevamo, a tutte le altre porte dei sensi. Quindi abbiamo parlato del processo del vedere, dell'udire, ma possono esserci anche un'infinità di sensazioni tattili, e il gusto. E quando mangiamo, ad esempio, c'è un processo, ci sono tanti processi di degustazione, e a tutti questi processi che si presentano nelle porte dei sensi si può applicare lo stesso principio di investigazione, appunto, di notare che l'oggetto è apparso, etichettare l'oggetto, vedere, cercare di osservare le qualità e la natura di questo oggetto. Now, for a successful observation and knowing what is going on, several mental factors are needed. And one of them in the Pali scriptural language is known as vitakka, which our teacher from Burma translates as aiming the mind towards the object. Quando appaiono questi oggetti, gli oggetti di Vipassana, ci sono dei fattori mentali che si attivano. Uno di questi è quello che viene chiamato vitakka. E il nostro insegnante della Birmania, aiming. Traduce, diciamo, questo fattore mentale vitaka nella lingua pali come mirare. Yeah. And another one, second mental factor that is essential is effort, known in the Pali scripture language as viriya, which means that the mind, the observing and knowing mind, needs to be propelled, needs to be moved towards satna, the object of observation. It needs to actually reach satna, that object. Un secondo fattore mentale che deve essere attivato è quello che viene chiamato viriya o effort. Effort and sforzo. Diciamo, ci vuole un certo impegno, un certo sforzo per dirigere la mente verso l'oggetto che è sorto, quindi intenzionalmente creare questa energia, questo sforzo di portare la mente sull'oggetto. So, if this is your object, here's your mind, the observing mind. I mean, first, the observing mind needs to be aimed in the right direction. So that's one part. The second part is the effort part. With effort, the observing mind then gets propelled towards the object. The third aspect is rubbing the object, the mind being in contact with object. This rubbing aspect in the Pali scripture language is known as vichara. Allora, l'esempio appunto che faceva Venerabile è quello della mente e dell'oggetto. Allora, la prima parte è quello di mirare, no? Cioè la mente deve essere naturalmente direzionata verso l'oggetto, se è direzionata di là non arriverà mai all'oggetto. E il secondo aspetto mentale è quello dell'energia, dello sforzo, che deve sostenere, diciamo, l'impulso di portare la mente all'oggetto. Il terzo aspetto, fattore mentale, che viene chiamato vichara nella lingua pali, è quello che si può tradurre come sfregare la mente sull'oggetto, una traduzione un po' forse forzata, però rende l'idea di come la mente deve rimanere in contatto con l'oggetto e investigare con continuità l'oggetto. Now, in the presence of those three mental factors, then mindfulness can arise, and then ideally this mindfulness becomes more and more continuous. Ecco, grazie a questi fattori mentali che noi attiviamo, sorge la consapevolezza, e la consapevolezza sostenuta in questo modo può diventare continua. Now, probably the most vital factor for a development in Vipassana meditation is really mindfulness. And with regard to mindfulness, it is its continuity which is even more important. And so, if all of you could make a big, big effort from the very, very start of your retreat to work on this continuity of mindfulness, of course, at first it's not going to be continuous, no doubt. That's just the way it is. But if we keep making concerted effort towards working for more and more continuity, then gradually it will happen. Allora, naturalmente l'aspetto mentale, il fattore mentale più importante in tutto questo processo è la consapevolezza. Quindi se noi continuiamo a esercitare questo sforzo di questi fattori, di mirare, di energia, di mantenere il contatto con l'oggetto, la consapevolezza si costruisce e diventa continua. Naturalmente questo non avverrà subito, è naturale, insomma, che ci siano delle interruzioni nel processo di consapevolezza, però se ci impegniamo in questo, prima o poi succede che la consapevolezza diventa continua. No. Still, one more aspect that certainly needs a bit more explanation, namely the labeling. The labeling of Fatna objects. Try to, over time, try to find a form of labeling that works for you. If you label an object too much, let's say in the case of one rising movement, you label it like 10 times, rising, like this, you will not have much time left for the actual observation of the object and to know its nature. So that doesn't work. And so, just one label at the beginning of a rising movement, that's quite enough. Allora, un altro aspetto molto importante è quello dell'etichetta mentale. Ognuno dovrebbe trovare il suo modo per fare questo processo di etichettare, insomma, no? Perché ad esempio, se noi etichettiamo nel movimento dell'alzare dell'addome 10 volte alzare, mentre il processo avviene, magari non ci rimane tempo per osservare la natura del movimento, le qualità che si presentano, insomma. Quindi è importante appunto trovare il modo giusto, potrebbe essere una nota mentale all'inizio e potrebbe essere sufficiente. No, in the case of a pain that maybe is lasting over a longer period of time, you want to proceed as follows. Namely, first you label it as pain, and then you give yourself enough time to observe it, and next you then try to know its nature. And then as the pain continues, label it once again, observe it again, try to know its nature. And then you go on like this even for a longer period of time. Nel caso del dolore potrebbe essere appunto un dolore che si presenta per lungo periodo, di etichettare, osservare il dolore e conoscere la sua natura. Alla fine di questo ciclo si può ricominciare con l'etichetta mentale, l'osservazione e l'investigazione della natura del dolore. E questo processo può andare avanti anche per lungo tempo. No, at first we might not find just the right label for it, the object that is occurring. In which case, simply choose some generic term. So maybe in the at the most, just label as sensation. And certainly later on, as the same sensation will arise again and again, you will know, oh, this is stiffness but not tightness. And then label it accordingly. Potrebbe succedere che non riusciamo a individuare subito la nota mentale appropriata per quello che sta avvenendo, e nel qual caso possiamo semplicemente usare la nota sensazione, e col tempo magari possiamo diventare più esperti e riconoscere ad esempio la differenza tra rigidità, stiffness, and the tightness. So you know it's stiffness, tightness, but not tightness. Tightness, no, I don't know how to translate. Oh. Qualcuno mi aiuta? Contrazione. Okay. And so, if on occasion when observing an object you miss to label it, that's fine. And then just focus on the observation of it and try to know its nature. Se a volte durante l'osservazione you missed, no? miss to label, if you forget to label. Forget. Se vi dimenticate di etichettare, non c'è problema, semplicemente continuate nel processo di osservazione. No, keep in mind that among the three aspects, the occurrence of an object, the labeling plus the observation of it, and knowing its nature, the labeling is kind of secondary. Much more important is that you really observe the object, and even more important is to know its nature. Tenete a mente che in questo processo di osservazione che abbiamo descritto, la nota mentale può essere secondaria, e molto più importante è l'osservazione dell'oggetto di Vipassana e il riconoscere la sua natura, investigare la sua natura. No. These are some aspects that apply to the sitting meditation. And now allow me to say a few words about mindfulness in walking meditation. Ora abbiamo parlato della meditazione seduta e adesso spendiamo due parole riguardo alla meditazione camminata. Now, with an aim to maintain the continuity of mindfulness, the walking meditation is as important as the sitting meditation. So sometimes retreatants, they love to sit, but they think not too highly of the walking meditation, and that might not be quite the right attitude. Nei termini del mantenimento della consapevolezza, della continuità della consapevolezza, la meditazione camminata è importante quanto la meditazione seduta, e infatti può succedere però che alcuni meditatori privilegiano la meditazione seduta a quella camminata. Questo potrebbe essere qualche cosa che non è molto appropriato, non è molto equilibrato. The realization of the Dhamma is possible not only during the sitting meditation, but could happen during the walking meditation, or could even happen during general activities. La realizzazione del Dhamma, quindi con questo si intende la liberazione, l'illuminazione, può accadere durante la meditazione seduta, ma allo stesso modo nella meditazione camminata o nella meditazione delle attività quotidiane. Now, during the first few days of our mindfulness sattva practice, we want to spend more or less an equal amount of time in the sitting meditation and walking meditation. So we sit for 1 hour, we walk for 1 hour. Then again, we sit for 1 hour, we walk for 1 hour. E durante i primi giorni di ritiro si cerca di mantenere un equilibrio tra meditazione seduta e camminata, quindi sediamo un'ora e camminiamo un'ora. Now, in the Mahasi tradition of Vipassana meditation, three forms of walking meditation are being taught. The first one is while the left leg is moving, we label this as left step. While the right leg is moving, we label this as right step. And in both cases, we try to observe and know the most predominant sensations that occur in the leg. Nella tradizione Mahasi, della meditazione Vipassana, diciamo che possono esserci tre modalità di meditazione camminata. La prima è quando muoviamo la gamba sinistra, left step. Right, left, right, leg, right step. Etichettiamo passo sinistro, e quando muoviamo la gamba destra, passo destro. E in questo caso abbiamo un'attenzione sulle sensazioni correlate, diciamo, nel movimento del passo sinistro e del passo destro. So, the most predominant object could be maybe the bending of the knee, some stretching sensation, or it could be a sensation in the foot itself. Whatever predominant sensation occurs, focus your attention on it, and then observe it and know it. In questo caso la sensazione predominante potrebbe essere il piegamento del ginocchio, oppure le sensazioni sotto i piedi, e in qualsiasi sia la sensazione predominante prendiamo nota e osserviamo. Now, this first form of walking meditation we do at a speed slower than ordinary walking. Questo tipo di camminata di solito si fa a una velocità un po' più bassa del normale passo, diciamo. No, during the second third of an walking session, we then slow down the speed and we divide one step into two parts, namely the lifting of the foot and the lowering placing of the foot. Allora, nel secondo terzo, diciamo, dividiamo la camminata in tre parti, quindi il primo terzo è quello che abbiamo nominato, il secondo, la seconda parte, diciamo, è quella di dividere il processo in due parti, quindi abbiamo alzare e abbassare del piede destro, ad esempio, poi alzare e abbassare il piede sinistro. And so at the beginning of the lifting process we briefly label this as lifting, and so then we try to observe that lifting process from its very, very beginning until its very end. Quindi, nell'alzare del piede, appunto, cerchiamo di notare le sensazioni correlate all'alzare del piede destro dall'inizio alla fine. Now, at the very beginning of the lifting process, while your foot is firmly placed on the ground, the weight of the body will push the foot onto the ground, and some pressure is likely to be there in the heel. Then be aware of the pressure. As the foot is coming off the ground, you might notice a release of pressure in the heel. You might then further notice a stretching in the middle portion of foot, the sole of the foot. You might notice maybe some new pressure rising in the ball of the foot, in the toes, and so on. Allora, all'inizio di questo processo il piede sarà appoggiato sul suolo, quindi possiamo notare ad esempio una pressione alla caviglia, al tallone. E quindi notiamo questa pressione. Poi man mano che il movimento prende luogo, sentiamo che questa pressione diminuisce, quindi si sta sollevando, e magari si presenta una tensione nella parte mediana del piede, della pianta del piede, e una pressione maggiore sulle dita dei piedi, sulle dita dei piedi. And so then be aware of and know the predominant sensations as your foot is coming off the ground. Then observe and know the predominant sensations that occur while the foot is being lifted upwards. E poi ci sarà il processo del sollevare, quindi notiamo le sensazioni correlate con questo sollevamento del piede. Then, once you've reached a certain, or once your foot is off the ground to some extent, then at the beginning of the lowering process, you want to label this as lowering, and then carefully observe that entire lowering process. And pay particular attention to the very moment when your entire foot, or maybe just the heel of the foot, is first touching the ground. What kind of sensation is predominant at that point? And then what are the other sensations that occur while you place the foot on the ground? Allora, quando abbiamo raggiunto il culmine del movimento di alzare, comincerà il processo dell'abbassare il piede. Allora, in questo punto esprimiamo l'etichetta mentale abbassare, poi cerchiamo di portare attenzione a tutto il movimento di abbassare, cosa si presenta, e specialmente l'attenzione può essere rilevante quando il tallone tocca il suolo o l'intera pianta del piede tocca il suolo, e in questo caso appunto osserviamo queste sensazioni. Now, during the last third of a walking session, we divide one step into three parts, namely the lifting process, the forward movement, and the lowering and placing of the foot. So it's basically the same thing, except for the middle portion, the forward movement, is the addition. And in terms of the speed with which we do the third set in the form of walking meditation, this is even slower than the second form of walking meditation, and the second form is slower than the first form. Allora, la terza parte in cui dividiamo la sessione della meditazione camminata, la suddividiamo in tre parti. Allora, prima abbiamo una parte, poi due parti, e qui sono tre parti. Quindi notiamo l'alzare del piede, l'avanzare del piede, questa nuova fase, e l'abbassare del piede. E, per quanto riguarda la velocità di questi processi, diciamo che la velocità di questa terza parte è ancora più lenta, diciamo, della meditazione in due parti, e quella in due parti è ancora più lenta di quella prima, della prima parte in cui esprimiamo una nota sola, insomma, del processo del camminare. So, the only new part setting here for the third form of walking meditation is the forward movement. So at the beginning of this forward movement, we briefly label this as forward or moving, and then as gliding, as you like. And then carefully we observe that forward movement, and we try to know its nature. So what's the movement like? Is it one continuous steady movement? Or is it maybe a stop-and-go movement like this? Or is it, especially at the beginning, that suddenly we lose our balance, the body starts suddenly swaying one way and another way? So whatever it might be, just be aware of it and know it. Allora, tre parti, no? Di questo nuovo processo del camminare. Le altre due parti, diciamo, le abbiamo già esplorate nell'alzare e abbassare. La nuova parte è quella di avanzare il piede, no? Nell'aria, e quindi portiamo particolare attenzione innanzitutto alla nota mentale, avanzare, oppure quello che ritenete opportuno. E come si presenta questo movimento? Può essere un movimento morbido e continuo, o può essere un movimento a scatti, oppure addirittura si può presentare un vacillare del corpo, un equilibrio instabile, insomma. Ecco, cerchiamo di osservare questi aspetti. No. When we do the walking meditation, we choose a path that is maybe 5 meters long, at the most maybe 10 meters long. It doesn't have to be very long. And then mindfully we walk up and down this path. Quando facciamo lezione di camminata, cerchiamo di scegliere un percorso che non sia troppo lungo. Può andare da 5 a 10 metri al massimo. E manteniamoci su questo percorso consapevolmente, camminiamo avanti e indietro. No, mindful walking is quite different from ordinary walking down a street in the absence of mindfulness. With ordinary walking, we walk and in order to get to a certain destination. Here, in mindful walking, the destination is not important, but to be aware and to know what is happening as the walking is going on. Allora, la camminata consapevole è piuttosto diversa dal camminare ordinario, insomma. Camminare ordinario dobbiamo raggiungere un certo posto, un certo luogo, insomma. In questo tipo di camminata consapevole non dobbiamo raggiungere nessun luogo, ma piuttosto portare l'attenzione al processo, a quello che sta realmente accadendo. Now, when you choose a path for your walking meditation, then please make sure that your path will not crisscross with the path of some other retreatant. Because if this happens, then easily some friction arises. Quando scegliete il vostro percorso di meditazione e camminata, siate sicuri che non si incroci con quello di un altro meditatore, perché a volte può succedere qualche incomprensione, qualche tensione. And then something actually quite amazing happens. So there's that one has chosen a path, and someone else is crisscrossing, and that path then becomes my path. Oh, that other retreatant is then crisscrossing or is something, cutting into my path. Come on. This property here is not yours. But that's just the way the mind works. E può succedere appunto che qualcuno si incrocia al nostro percorso e allora sorge nella mente questa idea, insomma, questo è il mio percorso. Quindi si afferma questa idea di proprietà, insomma. Now, when we do the walking meditation, we want to maintain an upright certain posture. And certain, please, then keep your eyes downcast at a point, or focus your eyes at a point maybe 3 to 4 meters ahead of you, and make sure that you don't kind of keep looking at your feet, checking whether your feet are still there or not. If you keep doing this, then very soon you will end up with a stiff neck. Allora, gli occhi quando si cammina devono essere rivolti verso il basso, non guardare in giro, quindi focalizzati, diciamo, ma non proprio focalizzati, ma direzionati a 3 o 4 metri avanti, e non guardate i vostri piedi, se ci sono ancora, ad esempio, perché il tenere la testa inclinata in questo modo può avere come risultato appunto una rigidità, una tensione nel collo. Now, restrained of the senses was briefly mentioned last night, and this restraint of the senses is certainly, for instance, important during the walking meditation. Here, Biandici Legi, it is so beautiful. The scenery is just outstanding. And so there are great temptations to look around. And please try to refrain from looking around, even though it's difficult. Allora, abbiamo parlato del restraint, contenimento. Guarda gli sensi. Sì, non guardi. Controllare i sensi, restraint, durante l'introduzione di ieri sera, insomma, quindi questo è particolarmente necessario nella meditazione camminata, di trattenere, diciamo, i sensi dal divagare, insomma, ecco, perché qui a Pian dei Ciliegi ci sono degli scenari, dei colori molto belli, quindi è molto facile distrarsi in questo modo, insomma, ecco, controllare i sensi, insomma. Now, if you do need to, or if, let's say, some obstacle comes up, maybe another meditator is coming closer, then, and you do need to look at that object, well, then at least do so mindfully. Be mindful of the intention to turn the head, and then be mindful of the actual turning of the head, know the different sensations involved, and then mindfully observe, look at the object. Allora, se ad esempio si presenta un ostacolo sul nostro percorso, oppure non so, la vicinanza di un altro meditatore, così, e dobbiamo consapevolmente rivolgere l'attenzione a questo oggetto, se si presenta, insomma, no? Cioè di non tralasciare la consapevolezza verso questo oggetto che si presenta, come ad esempio le sensazioni coinvolte nel girare la testa verso questo oggetto, nel processo dell'osservare e nella reazione mentale, eccetera, insomma, riguardo questo, insomma. No. Another aspect that is really helpful for the walking meditation, as well as for the general activities, is the slowing down of it. We want to do the walking meditation as slowly as possible. And there's even a maxim here. The slower you go, the more your practice will unfold. Un aspetto importante è quello del rallentare nella meditazione camminata, così come anche nelle attività quotidiane. E addirittura c'è un detto, appunto, che più si rallenta e più, diciamo, ci sarà uno sviluppo positivo nella vostra pratica, insomma. Time permitting, I will mention a few more details on slowing down, the benefits of slowing down one's activities. Voglio menzionare, se il tempo lo permette, i benefici ulteriori di questa attività di rallentare. During some Dhamma talk. Durante, sì, questo ne parlerò durante un ulteriore Dhamma talk. No, one more aspect with regard to the walking meditation. Restraint is not only with regard to the eyes, but also with regard to our arms. And so when you do the walking meditation, please keep your hands in either in front of the body or behind your back, and just keep them without moving in an absent minded manner. Sometimes with the beginning retreatants, let's say they carry a bottle of water and then go around like this. This is not really mindful walking. Allora, una piccola nota riguardo al contenimento dei sensi di cui abbiamo parlato, e anche ad esempio il movimento delle braccia e delle mani, insomma, no? Naturalmente non è molto indicato se ci portiamo una bottiglietta d'acqua e dondoliamo le mani, le braccia in modo inconsapevole, insomma. Quindi è consigliato di mantenere le mani davanti in questo modo, oppure sul retto del corpo. No. The third area that we're going to talk about this morning is mindfulness during general activities. And over the years I've found that this part of our mindfulness practice usually gets treated as not that important, and so people don't pay too much importance to it. And that's actually a great pity, because it means it interrupts the flow of mindfulness in the course of the day. La terza parte della nostra trattazione di oggi riguarda la consapevolezza nelle attività quotidiane, e purtroppo non viene dato spesso la giusta importanza, il giusto valore a questo aspetto. Ci sono tante attività quotidiane che svolgiamo durante la giornata, e quindi è importante essere consapevoli nel modo giusto durante queste, proprio per mantenere la continuità del flusso della consapevolezza. So by general activities we mean all activities that take place outside from the formal sitting meditation and outside from the formal walking meditation. And there are plenty of those certain activities. And so essentially all general activities that take place from the time we wake up in the morning until the time that we fall asleep, we want to be mindful of those. Allora, essenzialmente noi vogliamo rimanere consapevoli durante tutte le attività che si svolgono da quando ci svegliamo fino al momento in cui ci addormentiamo, e questo anche perché ci sono tante di queste attività che si svolgono, al di fuori della meditazione formale seduta e camminata. So, last night, the process of waking up and getting ready was briefly mentioned. Then the eating process was also briefly mentioned. And then there are other activities such as opening a door, closing a door, then using the bathroom, taking a shower, and then activities such as bowing down at the beginning of a session, bowing down to the Buddha statue. At the end of a session, one might certainly want to do the same thing. And then there are all those many activities that occur during the transition from one to the other. So let's say after formal sitting meditation, then you want to get up. This entire process of getting up that lies between the sitting and certainly the walking meditation, you want to be mindful of this. Allora, abbiamo menzionato già ieri la consapevolezza quando ci alziamo, e abbiamo menzionato la consapevolezza durante il mangiare, però ci sono tante altre aspetti che possiamo tenere in considerazione e durante i quali vogliamo mantenere la consapevolezza. E appunto tutte queste attività hanno a che vedere con il prendere cura della persona quando andiamo in bagno, quando facciamo la doccia, e quando ci sono quei periodi dal passaggio dalla meditazione seduta alla meditazione camminata, quando apriamo le porte e quando anche ci facciamo gli inchini alla statua del Buddha, ad esempio, all'inizio della seduta o alla fine della seduta. Tutti questi aspetti possono creare la continuità della consapevolezza e devono essere tenuti a mente, insomma, no? Cercare di mantenere la continuità. An area where retreatants oftentimes suddenly forget their mindfulness is right after a meal. So you finish your food at breakfast or at lunch, and then somehow naturally one gets up in an absent-minded manner, and in an absent-minded manner walks out of the dining hall. And so one walks on quickly, and belly is filled, so one feels okay, and then never forgets about the mindfulness. And so you try to see this inclination, and then pay particular attention to this process of getting up from the table, then picking up your tray, and then mindfully going towards the dish washing area, and then mindfully doing your dishes. Allora, un aspetto che spesso viene tralasciato dai praticanti sono quei periodi dopo i pasti, in cui uno si sente la pancia piena, bello contento, si alza e se ne va, dimenticando la consapevolezza. Allora il Venerabile ci esorta a cercare di non tralasciare queste parti, di non rimanere con la mente assente, insomma, in questi momenti, insomma, no? E, è un processo molto interessante anche questo, e si può scoprire tante cose, appunto, e quindi alzarsi consapevolmente, prendere il vassoio, andare verso l'area dove si lavano i piatti, riporre i piatti, e questo può essere esplorato e può servirci molto per mantenere la continuità. When it comes to closing doors, there are some retreatants, probably none here, who who somehow or other tend to have so much energy that it translates into slamming doors with a big bang. And then sometimes also what happens, a person, things are determined by mental states. So a retreatant at times might get upset with something, and then this manifests in slamming the next door, like kind of letting go or getting rid of one's certain anger, and then it's the fault of the door. And this might then lead cause shockwaves to go through the different rooms nearby. And this is not necessary. So please, when you open and close the door, do this with utmost mindfulness. I know we all have opened and closed doors many times, but are we really mindful of how we're doing it? Un'altra area molto interessante da esplorare è quella del chiudere le porte. Spesso succede che i meditatori chiudono le porte e danno un grande colpo, quindi diciamo in modo molto forte, insomma. E questo a volte può essere un rilascio di tensione, no? Che può si possono scaricare le tensioni, appunto, uno magari è un po' inquieto o irritato, quindi scarica la tensione chiudendo la porta in modo molto forte. Questo può creare delle onde di disappunto, avere delle ripercussioni su tutte le persone che sono nelle stanze vicino, e può quindi creare fastidio, insomma, no? Quindi, ma questo non è necessario, insomma, se noi manteniamo la consapevolezza possiamo chiudere la porta in modo gentile, quindi evitare questi piccoli traumi, diciamo, insomma, le persone che stanno vicino, insomma. So for all these certain different general activities, we want to label them, we want to carefully observe them, and in a continuous manner, and we want to know the nature of what's going on. Quindi per tutte queste attività possiamo applicare lo stesso principio del conoscerle che stanno avvenendo, di etichettare, di esplorare, diciamo, il processo e di conoscere la natura di quello che sta avvenendo. And so just like with the walking meditation, slowing down is important for the general activities, and restraint of the senses again is certainly important. E come per le meditazioni formali seduta camminata, camminata, anche quella delle attività quotidiane può essere molto importante il rallentare, slowing, you say? Yes, slowing down and restraint of the senses. Il controllo dei sensi, insomma, il trattenere i sensi dal divagare, dall'espandersi. No. This much for the general activities. The next area of our exploration will be the interviews. In the Mahasi tradition of Vipassana meditation, but maybe we can say in Vipassana meditation in general, the interviews are an integral part of the meditation practice, and the interviews are really, really important. They help a retreatant a lot to get some proper guidance, and then based on the guidance do one's sattva practice in an efficient manner. L'aspetto successivo di cui ci occuperemo sarà quello che ha a che vedere con i colloqui. I colloqui nella tradizione Mahasi in particolare sono molto importanti e sono un grande sostegno per i praticanti e possono aiutare moltissimo nell'integrazione della propria pratica e nel direzionare la propria pratica e sviluppare la propria pratica nel modo corretto. No, the first step with regard to interviews starts already right after a good sitting or walking session. So after a good sitting or walking session, please, if you think you need to write things down, then take a piece of paper and write down your main experiences in terms of the sitting meditation, in terms of the walking meditation, and then even in terms of some observations with regard to the general activities. Allora, diciamo che questo aspetto del riportare l'esperienza prende luogo principalmente dopo una buona seduta, una sessione di meditazione seduta o dopo una buona sessione di meditazione camminata. E all'occorrenza possiamo prendere appunto carta e penna e riportare, trascrivere gli aspetti fondamentali, principali, che hanno caratterizzato questa sessione. And then, before the interview takes place, among the different notes that you have of your practice during the last 24-hour period, then choose that sitting session and walking session that best reflect your practice. It doesn't best doesn't necessarily mean always pleasant experiences, but it means the main development in your practice. And this could very much involve, let's say, some difficult experiences. Quindi dobbiamo cercare di considerare come esempio da riportare quella sessione di meditazione che meglio riflette la vostra pratica nelle ultime 24 ore. E questo non necessariamente vuol dire che sia un'esperienza piacevole, insomma, può anche essere un'esperienza spiacevole, insomma. Ma l'importante appunto è l'aspetto che questa sessione abbia rifletta pienamente o completamente la vostra pratica nelle ultime 24 ore, insomma. And so then, when you come into the interview room, please do so, not racing into the room, but rather mind for slowly and mindfully coming in there, and then slowly, mindfully taking your seat. Ancora qui l'esortazione è quella di mantenere la consapevolezza quando si entra nella sala dei colloqui, non correre dentro in modo inconsapevole, ma consapevolmente entrare e prendersi il posto a sedere. And suddenly then, when your turn comes to give your report, then please start with the description of your rising and falling movement of the abdomen, and suddenly then you might want to stick again to the three aspects of occurrence of the object, so which object occurred, then the labeling of it, the observation of it, and then as number three, knowing its nature. E ancora, quando il vostro turno per il colloquio, le cose principali da riportare hanno che all'inizio la prima cosa di cui dovete parlare è il movimento dell'addome, quindi descrivere questo movimento dell'addome secondo questi tre aspetti che abbiamo menzionato, notare l'oggetto, l'etichettare l'oggetto, l'osservazione dell'oggetto e la natura dell'oggetto. After having described the rising and falling movements to some extent, then go on to explain maybe about the next most predominant object. So this could be a pain, could be the thinking, could be a mental state, and then whatever it has happened in terms of major experiences during the sitting meditation, that please relate. Allora, dopo aver dato qualche cenno riguardo al movimento dell'addome, che questo è un aspetto fondamentale, insomma, da ricordare, insomma, di osservazione, allora poi si può passare all'osservazione, a riportare, diciamo, gli altri oggetti primari che si sono presentati, insomma, sia un dolore o una stati mentali, mental state, pain, whatever other, o qualsiasi altro oggetto primario che si è presentato durante questa sessione di meditazione seduta. Then, if there's time, also briefly describe your walking meditation. Again, you mention which object occurred. So let's say the lifting process of the foot, and then mention whether you labeled it or not, and then whether you observed it, and then what you came to know about the object, about the lifting process. And the same thing goes for the forward movement and the lowering and placing. Allora, se rimane del tempo, appunto si può riportare riguardo alle osservazioni nella meditazione camminata, e nel processo dell'alzare cosa abbiamo notato, nell'avanzare cosa abbiamo notato e nell'abbassare cosa abbiamo notato, e la natura delle osservazioni che abbiamo fatto. And so, then, when you give your report, please try to refrain from evaluating your own practice, evaluating, analyzing your own practice. So that part is usually the teacher's certain part, and some meditators spend a lot of time telling a teacher what they think their practice is about, whether it's good or bad, and so on. Un aspetto importante è quello di non giudicare la propria pratica. Allora, quando si va a fare il colloquio con l'insegnante, può capitare delle persone che dicono che è stata una buona pratica, non è stata una buona pratica, ma questo aspetto va completamente lasciato da parte, insomma, diciamo, non è compito del meditante esprimere dei giudizi sulla propria pratica, sarà eventualmente l'insegnante che potrà valutare, insomma, ecco, cosa sta succedendo. And so, oftentimes it happens that a retreatant might think his or her experiences aren't that great, when in fact, from a teacher's point of view, what has been reported could very well be an indication of a further deepening in a retreatant's practice. So things come differently from what one expects. I didn't understand the first part. Sometimes the retreatants think that their practice is falling apart, good, and when in fact from a teacher's point of view it's just the opposite. A volte può succedere, insomma, che dal punto di vista del meditatore la propria pratica magari sta andando male, sta peggiorando, però non è necessariamente così, perché diciamo un'osservazione di questo tipo la deve fare l'insegnante. Può darsi che questo aspetto che per noi è un negativo, per l'insegnante possa avere un valore completamente diverso, insomma. And so, then, would you give your report? Please try to express certain things in simple language. There's no need to use any Pali technical terms. Cercate di esprimere il vostro report in modo molto semplice. Non è necessario usare parole complicate o parole dalla lingua Pali, ad esempio. And so then, also keep in mind that these interviews are really meant to help you. And so just consider me your friend, and there is no need to report from imagine. There's no need to please a teacher, sometimes one's meditation is not going well, and then one thinks, what can I tell the teacher? He needs to be something good, and so then one starts imagining. So this is not necessary. Count this. There's no need to please. You just report what's really happening in your practice, and that's good enough. L'importante è tenere a mente che bisogna riportare quello che sta succedendo, insomma, no? I colloqui sono fatti proprio per aiutare i praticanti, e il venerabile dice: io sono un vostro amico che vi aiuta, insomma, quindi non c'è bisogno di farmi piacere riportando qualche cosa che ritenete buono, insomma, perché questo può a volte dar luogo a delle immaginazioni. Uno, per far piacere all'insegnante, magari si inventa qualche cosa, insomma, questo non è assolutamente necessario. Attenetevi semplicemente a quello che veramente sta succedendo, e questo va bene. No, during the first few first few days of an intensive retreat, there are certain common difficulties that arise. Among those we have retreatants fighting, battling with sleepiness. We further have the wandering mind, the mind going off into thinking time and again, and then all those many pains and aches that come up, etc. Durante i primi giorni di meditazione ci sono delle difficoltà che si presentano comunemente, spesso, insomma, no? Allora ci può essere sonnolenza, ci può essere divagazione mentale, pensieri, dolori. Discouragement might be there. Scoraggiarsi. And then one might get quite tired because of tired because of the schedule, having to wake up early, having to practice many hours in a day, and so on. Quindi per la sveglia molto presto, si può sentire stanchi anche per il fatto che l'orario, il programma è abbastanza intensivo, insomma, quindi durante i primi giorni questo può essere risentito, insomma, si può risentire di questo. So those kind of things, those difficulties tend to arise, and just know that it's not only happening to you, but for other retreatants it will be somewhat similar here or in some other during some other retreat in some other country will be more or less the same thing. And so knowing this, try to be as patient as possible with your own practice, and then with determined effort you just keep going, and things will turn around and things will become much more rewarding. Queste difficoltà sono difficoltà comuni a tutti i praticanti, non sono solo vostre difficoltà, insomma, e non solo qui, ma capita dappertutto, insomma. Quindi l'importante è mantenere un atteggiamento di impegno continuo, e prima o poi queste difficoltà cambieranno e la pratica si svolgerà in un modo più agevole, insomma. No, there's a few aspects also that you need to keep in mind. Ci sono altri aspetti che è necessario tenere in mente. And those have to do with maintaining balance in one's Vipassana practice. E hanno a che vedere col mantenere l'equilibrio nella pratica della Vipassana. Now, Vipassana meditation at times can be quite intensive, and so you do need to eat a regular amount or a moderate amount of food. Make sure, sometimes retreatants want to even combine Vipassana meditation with fasting, and that's really a bad idea. Allora, la pratica della Vipassana può essere molto molto intensa delle volte, e quindi ci serve piuttosto una buona quantità di energia, insomma, no? Quindi teniamo a mente che è necessario avere il giusto apporto di cibo, insomma, perché succede a volte che ci sono delle persone che vorrebbero combinare, diciamo, la meditazione con il digiuno, e questo non è il caso. Another aspect that sutta might come up. For some is sudden constipation. One gets constipated. If you happen to be constipated for 3 or more days, then do something about it. Start maybe already earlier on. Start taking laxatives if necessary. There's certain exercises that you can do which help to induce a bowel movement. So to have regular bowel movements during an intensive retreat is important. Allora, può accadere durante i ritiri intensivi che si presenti un problema di costipazione intestinale. È importante che ci sia un regolare, diciamo, movimento intestinale durante i ritiri, e quindi se questo è il caso, se si presenta questo caso, di prendere o dei lassativi o di fare certi esercizi che possono aiutare, insomma. Questo, diciamo, è un aspetto da non sottovalutare. No. Another area that certainly we need to pay attention to is our night sleep. We want to make sure that we get enough sleep. And so over time, in the course of an intensive retreat, the need for sleep will fluctuate. Sometimes it will be more, it might go up, and other times it might go down. So just for this, or just for you to know this, and you please do refrain from deliberately or willfully depriving yourself of night sleep, thinking, oh, I need to move ahead in my practice, oh, the only way to do this is not to sleep at night, and then you practice through the whole night. Please refrain from this. Un altro aspetto da tenere in considerazione è la giusta quantità di sonno di cui abbiamo bisogno. Durante il ritiro può succedere, questo giusto per informarvi, che a volte ci sia bisogno più sonno e a volte bisogno di meno sonno. Quindi dobbiamo cercare di capire, insomma, qual è la situazione, cosa, di quello che il nostro corpo ha bisogno, e non cercare di cambiare intenzionalmente questo, ad esempio pensando io voglio andare avanti nella pratica, allora magari sto a meditare tutta la notte o fino a tardi, insomma, perché questo non va bene, insomma, no? Cioè cercare di capire qual è la giusta quantità di sonno di cui abbiamo bisogno. Now, as for excruciating pains, some retreatants may want to push themselves through excruciating pains again and again, and this might be a bit too much. So when a pain becomes excruciating, please do take the liberty to change your posture, but do so mindfully and slowly. So you label the intention to move your to change your posture, and then you label the actual process of changing your posture. You try to observe and know the different sensations involved. Riguardo al dolore, un altro aspetto da tenere in considerazione è questo. A volte possono presentarsi dei dolori molto forti, insopportabili, insomma. Ci sono delle persone che intenzionalmente si sottopongono, diciamo, a questi dolori e cercano di andare avanti durante queste situazioni, insomma. E anche qui, insomma, bisogna stare attenti a non eccedere, insomma, non esagerare, insomma. E quando si presentano queste situazioni possiamo intenzionalmente e consapevolmente cambiare posizione, e facendolo appunto in un modo consapevole, cioè osservare l'intenzione di cambiare posizione, osservare tutti i movimenti correlati al cambiamento della posizione. Now, another area of concern is that some not properly informed Tantra retreatants think that during their Vipassana meditation, thoughts should not arise in the mind. So they try to create a state, a mental state of no thinking. And that is unrealistic, very much so. And so the Vipassana approach is quite a different one. The thinking simply just becomes an object of observation. So you label it, you observe it as best as you can without getting involved in its content, you know its nature, and then sooner or later the thought will pass away. Then you go back to your rise and fall, and so on and so forth. So try to avoid forcing or to bring about this thought-free state of mind. Un'altra cosa che può succedere è che ci sono dei meditatori che pensano che durante la Vipassana non bisogna pensare. E, questo non è realistico, insomma, nel senso che queste persone magari cercano intenzionalmente di creare uno stato mentale di non pensiero, forzandosi in questo processo. E, appunto, questo non va bene e la cosa naturale da fare, i pensieri ci saranno sempre, l'importante appunto è notare continuamente il sorgere del pensiero, i pensieri diventano un oggetto in questo modo, notare il pensiero, lasciarlo andare, non farsi prendere dal contenuto del pensiero, ritornare all'oggetto primario dell'addome e così via. Insomma, il pensiero si presenta ancora, lo notiamo, cioè, l'importante appunto è mantenere questa continuità di osservazione. No, for a new retreatant, someone who's new to mindfulness practice, having to sit for an entire hour might actually be quite challenging. And then thoughts might arise, how am I going to do this? Everyone else seems to be a perfect retreatant, but just me. And don't despair over this situation. Just go according to your ability. If you can sit still for half an hour, okay, go for that. And so, then, if after half an hour the pain's become excruciating and other difficulties arise, then take the freedom to change your posture and then continue with your session. So be allowing. And so know that Vipassana practice is involves a gradual development. So even if you start out having difficulties and you can sit for just 30 minutes, never mind, with practice, with time, the body will loosen up and very soon you find yourself, you can sit for 45 minutes, for 50 minutes, and then even for an entire hour. So be patient. Allora, specialmente per le persone che sono nuove alla pratica della Vipassana, può sorgere, diciamo, questa situazione in cui uno si paragona, diciamo, a quelli che stanno seduti immobili per un'ora. E anche qui, insomma, non dobbiamo disperare, non dobbiamo metterci in una situazione conflittuale con noi stessi vedendo che non riusciamo a stare seduti per un'ora. E bisogna procedere in accordo con le proprie possibilità, insomma, no? E il processo della Vipassana è un processo che migliora gradualmente, bisogna avere pazienza, insomma, no? Cioè, si può sedere per mezz'ora e poi cambiare consapevolmente posizione, poi la mezz'ora può diventare 40 minuti, poi 50 e così via, insomma. È importante appunto non crearsi questa aspettativa eccessiva, insomma. Now, yet another thing that may happen on occasion is that retreatants unnecessarily put a lot of pressure on themselves by entertaining expectations by setting standards, by setting certain timelines, and so they then plan out the retreat. Day one, my experiences should be so and so. Day two, another thing should happen, and the like. That is counterproductive. And take an expectation as an object itself, be label it, observe it, know its certain nature, and let go of it. If some sense of competition comes up, because of your conditioning, because of your growing up in a highly industrialized certain country, there's a lot of competitiveness. And when people come on retreat, they bring that competitiveness with them. And even though this is a silent retreat, even though we don't know what's going on for a different retreat, and yet we try, in our mind, we're comparing, oh, this person can sit an hour and a half, and that I also need to do the same. And this is not realistic. Un altro aspetto è quello del non crearsi troppe aspettative riguardo alla propria pratica, non porsi dei modelli, degli schemi, delle finalità da raggiungere, non mettersi in uno stato di competizione con gli altri meditatori, insomma, no? Cioè, siamo cresciuti in una società competitiva, quindi questo si può ripresentare durante i ritiri, insomma. E naturalmente anche qui, insomma, dobbiamo notare questo stato mentale, l'aspettativa, specialmente che stiamo creando un'aspettativa, può essere notato, oppure questo l'aspetto della competizione può essere notato come un oggetto e lasciare andare, insomma, chiaramente non forzarsi in questo atteggiamento, insomma, può essere molto controproducente, insomma, il forzarsi. Che still two or three more points and then we're done. On occasion, what happens is that some retreatants push themselves into extreme states of fear, of worries, of self-judgment, of guilt and the like. And by doing so, they might certainly be pushing their own mind a bit too far. And so in a case like this, should you be experiencing extreme levels of fear, of depression, anxiety, elation, hyperactivity, and so on, kindly please bring these things up during the interview, and then we'll discuss what needs to be done. Un'altra situazione che si può presentare è il fatto che alcuni meditatori possono mettersi in una situazione di estrema preoccupazione, paura, ansietà, and then self-judgment, guilt, senso di colpa, giudizio per se stesso, se stessi, e anche questo può essere molto controproducente, e questo deve essere riportato ai colloqui in modo che l'insegnante possa aiutarci, diciamo, a uscire da questo stato che non è certo adatto, insomma. No, what works the best is to do one's practice with an attitude, with a calm and detached and balanced state of mind. So not forcing things, but rather keeping this calm and tranquil state of observation. Quindi l'importante è mantenere una mente bilanciata e distaccata durante la pratica e non forzarsi e cercare di rimanere in questo stato mentale tranquillo, insomma, distaccato. also with regard to certain mental states, we do not want to identify with them, take them personally, but rather just to see them as objects of observation. They all come and eventually they will also leave again. Questi stati mentali di cui abbiamo parlato, è importante non identificarsi con essi, ma prenderli come oggetti, notarli e prenderli come oggetti, e eventualmente succederà che così come arrivano se ne vanno. Now, this pretty much then brings us to the end of those additional instructions with regard to mindfulness in sitting meditation, walking meditation, general activities, plus satna, some remarks about the interviews and a general attitude towards satna practice. And may you take these points with you. May you be able to apply them to your practice as much as possible, and then may your practice unfold more and more and more. And this is it for this morning. Abbiamo parlato di tutti questi aspetti riguardo alla meditazione seduta, camminata, attività quotidiane, e colloqui, più alcune osservazioni generali, e io mi auguro che voi possiate portare queste considerazioni, questi consigli con voi durante il ritiro e tenerli a mente, e che questo possa aiutarvi nello sviluppo sempre maggiore, sempre migliore della vostra pratica. Okay. Do you have any questions? Ci sono delle domande? L'osservazione per me è sempre un tema importante. Coincide con l'essere dentro all'esperienza, perché osservare il fenomeno, io delle volte lo interpreto come anche guardarlo, ma standone come distaccato. Asking whether the observation is like being inside the experience, or rather watching in a detached manner from outside. Both are possible. Sono possibili tutti e due questi aspetti. No, at times the mind certainly will be watching somewhat from a distance, and certainly at other times in one's meditation, the observing mind will be very, very close to an object, and sometimes even as if inside an object. And so either way is fine. In tutti i casi, insomma, va bene, sia che sia una un'osservazione distaccata, come osservare da fuori, e a volte invece è proprio più a contatto o addirittura dentro nell'oggetto, insomma. Cioè, la mente può avere queste attitudini diverse, insomma, però vanno sempre bene. Non è il caso di prendere un indirizzo piuttosto che un altro? That depends on the practice. Dipende dalla pratica, insomma. No. So sometimes, sometimes it's good to observe objects more in a from a distance, especially when it comes to pains, excruciating pains that one has observed already for quite some time, and things are not changing. Then it might be quite good to observe from a distance. And with other objects, it might certainly be very fruitful to go really deep into the object. Sì, dipende appunto dalla pratica. A volte, come ad esempio con un dolore molto forte, che lo stai osservando da molto tempo, è meglio prendere una certa distanza, no? Vederlo in modo un po' distante. A volte invece è utile proprio andare veramente in profondità dentro l'oggetto. And so, as the practice deepens more and more, the observing mind will be more kind of inside of an object. Man mano che la pratica si sviluppa, la mente sarà sempre più dentro nell'oggetto. No, but sometimes when the instruction would be given, well, always try to be in the center of your object, then some meditators cannot do it for too long. It gets too much. And therefore one needs to find just the right balance. E a volte invece diventa troppo questo essere dentro nell'oggetto, quindi bisogna trovare un equilibrio. Non può, per certi meditatori non può andare avanti a lungo e sempre, insomma, quindi bisogna trovare un equilibrio tra l'entrare molto nell'oggetto e stare un po' a distanza. No. So it's a bit difficult to give you a clear-cut answer to your question. Quindi è un po' difficile dare una risposta univoca, insomma, diciamo, questa. Yes, please. I'm a bit worried about all this slowness because sitting and walking very, very slowly all the time, sometimes my body wants a little bit of action, energy, yeah, sure. Maybe gymnastics or something, and not to get too stiff. What to do about that? Dice che è un po' preoccupato riguardo questo rallentare, insomma, perché sente che il suo corpo ha bisogno a volte di attività più di muovere l'energia, insomma, per evitare questa una rigidità. Quindi cosa si può fare riguardo questo? Well, at first, slowing down may be even experienced as a bit too challenging, like you say, one wants to move and so on. But then, after a few days of intensive practice, you might suddenly find that actually slowing down will help you to see things more clearly. As we do things in a quick manner, in a rapid manner, we miss out on so many details. It's this process of slowing down that very much opens up a microcosm of experiences that usually is not available. And so, for the time being, whenever this impulse to move, to run, to exercise comes up, then take this itself as an object. I don't know, there might also be some restlessness involved in this. Just observe it. No, on a longer retreat, let's say if you were to do a retreat that will last 3 months, 4 months, then I would very much recommend regular stretching every day a little bit, 20 minutes, half an hour, to keep the body healthy. No? But on a short, how long will you be here? 1 month. 1 month. Okay, so a little bit, then a little bit of regular stretching should be okay. Allora, so. Dice che all'inizio ci può essere un impulso verso l'irrequietezza, insomma, no? Quindi prendere questo impulso verso l'irrequietezza come oggetto. Però questo può essere compensato dal fatto che rallentando e osservando sempre più in dettaglio può svilupparsi interesse, scoprire delle nuove cose che abitualmente non vediamo nell'attività quotidiana, quando corriamo, ci muoviamo rapidamente, insomma. Quindi questo può compensare. Però è vero anche che durante un ritiro lungo ci può essere bisogno di fare un po' di stretching, un po' di esercizio, insomma, e questo può essere raccomandato specialmente per chi fa ritiri lunghi. But even with that daily little bit of daily stretching, you want to do these certain things mindfully. Ma anche facendo questi stretching quotidiani vanno fatti mantenendo la consapevolezza. Yes, please. Hanno fatto con lo stesso oggetto di dare interpretazioni diverse. Faccio l'esempio concreto. Durante la meditazione camminata, un'ape mi girava intorno e io sono stata colta dalla paura, ma una paura terribile, perché ho sentito il cuore in gola e mi sono sentita proprio identificata nella paura. A quel punto ho fatto proprio un atto di volontà per dire ok, io provo paura ma non sono una paura. È stato, mi sono dovuta sedere perché era veramente il mio corpo tremava tutto dalla paura. Quando finalmente attraverso la respirazione ho allontanato la paura, l'ho vista, mi sono chiesta cosa posso fare. E lì quando mi sono chiesta cosa posso fare, mi sono risposta ma cos'è che mi fa provare paura? Allora mi è arrivata la mancanza di amore e ho ripreso la mia camminata e si è ripresentata quest'ape. Non ho più avuto quell'intensa paura, ma ho parlato con l'ape e lì ho trovato amore e condivisione con l'ape. Non l'ho cacciata, ma sono stata, mentre la prima volta l'allontanavo, e quindi per questo. E la terza volta, quando ritornavo sempre sullo stesso punto, perché c'era un punto preciso in cui quest'ape cominciava a girare, quindi la prima una paura in tutto il corpo, la seconda l'accettazione delle cose così come sono. La terza l'ho vissuta come un ostacolo, perché a un certo momento non stavo arrivando dove mi ero prefissa di arrivare. E allora l'ho visto come un andare oltre a un limite. E allora ci sono stati con lo stesso oggetto tre modi diversi di rispondere. Ho notato questo. La domanda? È proprio questo, cioè la domanda è: possono avvenire diverse modalità di risposta nonostante si stia vivendo lo stesso oggetto, perché l'oggetto era sempre l'altro, però cambiava il mio modo di rispondere a questo evento. You understand? Somewhat. A fear is coming up, a heart is beating. She asked if it is possible to have different reaction to the same situation. Sure. So the situation was the fear, then accepting the the situation, yes. And then la terza cos'era andare oltre, going beyond. Yeah, very good. So if you've seen those three possibilities already, then this is very good for you. Se vedi queste tre possibilità, questo va già molto bene per te. So it shows that the way fear is obviously a mental and a rather unwholesome and for the most part unwholesome and rather unpleasant mental state. La paura è uno stato mentale dispiacevole e non salutare. And so most or a number of people might find it difficult to deal with fear. Molte persone hanno difficoltà a trattare con la paura. But in the end, with mindfulness, if one applies mindfulness to this experience of fear, one labels it, one observes it, one knows its nature, and one recognizes the fear is just another mental state. It comes up and it passes away. It's not going to last forever. And if you also see how sometimes the fear arises because of some interpretation, wrongful interpretation of a situation, then it will be easier to let go of the fear. And ultimately, indeed, when equanimity is predominant, then fear might not even arise. No, or else the mind will not be affected by it. Allora con la consapevolezza si può lasciare andare la paura, e addirittura quando c'è l'equanimità, la paura stessa magari non sorge neanche. No, so at first you try to be mindful of it, and then you might also want to see the reasons for it, or you might discover why the fear is arising, and so seeing this, you may make sure that the mind is not going in that direction, let's say in the direction of interpretation. Quindi prima notare la paura, e poi perché sorge la paura, quindi non entrare nel fatto di interpretare, insomma, la paura. Ok, anything else? Yes, please. Can you tell us something more about taking the thinking process as object of meditation and not to go in investigation or interpretation? This kind of thing, because there's some difficulties in this, like when you take the thinking process as object of meditation, I think that easily I is not. Sure, that's it. The mind immediately identifies with the content of oneself, the thoughts, and immediately the mind starts interpreting those, or could start interpreting the thoughts, and then one gets carried away with the content of the thoughts. And when observing the thinking process, not only to be aware of the thinking itself, but also to be mindful of the identification with it, to be mindful of some judgments of oneself, thoughts, why am I having these thoughts, I shouldn't be having these thoughts, and things like this. Interpretation of one's thoughts, experiencing something and then interpreting it means so and so. In the end, it's just situation is what it is. But the mind tends to add to things, and the interpretation you can cut. On occasion, focus on the interpretation itself, label it as interpreting a certain situation, and then observe it in an objective manner, know its nature, and let go of it. And that's it's an ongoing process. You have to be mindful of thinking many times until finally you see how the mind is working and how the mind is falling into the same trap over and over and over again. And eventually it will stop going in those directions. Eventually your mindfulness becomes so sharp that as a thought is still in the formative stage, right away the mindfulness is there and the thought collapses on the spot. It cannot even fully unfold. Too much. I have 2 hours of conversation. For me it's too much. For me it's too much. 2 hours. Yeah. My mind refuses to go on. Yeah, sure. Se tu vuoi tradurre quello che ti ha detto, magari. La domanda era: quando il processo del pensiero diventa l'oggetto di meditazione, a volte si tende a scivolare sull'interpretazione. reflexiones, sus juicios, sus problemas que yo nella madre mia canale ha risposto che molto facilmente questo accade, e quindi quando ci rendiamo conto che iniziamo a fare tutta una storia riguardo a quel pensiero, semplicemente di tagliarla e mettere i pazienti con questo tagliarla una volta, due volte, tre volte, quattro volte, alla fine la consapevolezza diventerà così precisa, così tagliente, che quando un pensiero sarà proprio lì sul nascere lo si riconoscerà subito e quindi lo si taglierà e non avrà la possibilità di sfociare in un discorso. Okay, let's suddenly leave it with this for not right now, and suddenly then other things will be explained during the Dhamma talks. Finiamo qui per adesso e altre cose verranno spiegate poi durante i Dhamma Talks.